svanire mentre anneghi il dolore nel ricordo della gioia di ieri. È come dirle ti amo mentre la leghi. Tu eri la mia preda, ma è chiaro non lo sapevi. È come rimanere senza Dio mentre lo preghi. E puoi vedere la luce laddove tutti sono ciechi. È come sapere la verità mentre la neghi. E al sorgere del sole vedremo chi è ancora in piedi. Strappami il cuore, dividilo in quattro parti. Così che giri bene se gira sui quattro quarti. Lontano dal rumore a cui cercano di abituarti. Lontano dagli spettri che cercano di abitarti. Amo questa musica, amore incondizionato. Lei rimane l'unica che abbia davvero amato. È lei che mi ha insegnato che la gente viene e va. Amore disinteressato come chi viene e se ne va. Dicono che un uomo possa amare sette donne. Io che sono un uomo ho sempre amato sette note. Amore che dà, amore che toglie. Come ci si può accontentare di prendere un essere umano per moglie? Strappami il cuore a metà, insegnami come si fa. Non morire dissanguati, a non essere drogati. Legati a questo gioco siamo tutti condannati. Segnati, brucia da dentro sto fuoco. Bring me back to life. Come se bastasse scrivere, scrivere. Bring me back to life. E sono costretto a vivere, tra can vivere. Can you bring me back to life? Can you bring me back? Bring me back to life. Il cuore come se fosse un rito. Conto di ritrovarlo nel viaggio per il Bushido. Perché l'amore è guerra, una bomba ti butta a terra. È un circolo vizioso in cui entri senza l'invito. Non ci son parole, sul banco sempre più prove. Non serve cercare altrove, la colpa è sempre laddove. Si è più deboli, l'infamia non manca mai, proprio mai. Si nasconde tra i discepoli, dentro il pentagramma posso trovare l'Nirvana. Sta musica è la moglie, l'amante, padrone, schiava. A volte anche puttana, ma la si ama uguale. In fondo è l'unica, sempre fedele nel bene e nel male. E non mi serve sfogarmi, imprecare contro un mondo che non sa ascoltarmi. Ma se gettassi carta e penna getterei le armi. È già troppo tardi, non posso più fermarmi. Sta musica continua a rianimarmi. Bring me back to life. Come se bastasse scrivere, scrivere. Bring me back to life. E sono costretto a vivere, tra can vivere. You bring me back to life. Can you bring me back? Bring me back to life. Come se bastasse scrivere, scrivere. Mentre noi ci tocca vivere tra vivere. Ogni cosa c'ha il suo limite. C'è chi è disposto a uccidere per quelle due parole così misere. Come se bastasse scrivere o sorridere. Mentre noi ci tocca vivere tra vivere. Se ancora voglia di parlarmi, di riascoltarmi, ti prego vieni a rianimarmi.